Bene, sì, è la sigla di Cialtroni nello spazio che quest'anno ha cambiato orario. Non c'è Marco per la prima puntata, ma ci siamo comunque in studio Alessandro e Francesco. Eh sì, Marco è impegnato con la sua tesi che consegnerà tra non molto, quindi poi tornerà disponibile per la trasmissione. E intanto vi teniamo compagnia noi. E quindi la solita domanda la facciamo a Alessandro, che cos'è Cialtroni nello spazio? Cialtroni nello spazio è una trasmissione che si occupa di informatica, ma anche di libertà digitali o meno, di privacy, Cultura di digitale. cultura digitale, cultura anche non troppo digitale, e comunque di libertà in generale. Anche tutta la musica che ascolterete in questa trasmissione è libera. Esatto, come la nostra solita base, ovvero il Chemical Brothers Remixed. Allora, via la prima puntata di questa stagione di Cialtroni nello spazio. Dicevamo lo spazio è cambiato, nel senso cambia l'orario. Andiamo in onda tra le 12:40 circa per circa 40 minuti e poi dopo di noi ricomincerà il ritmo naturale, non si sa ancora quando, probabilmente in novembre. Quindi un saluto va a Jerry che l'anno scorso invece era prima di noi e era destinato a tagliare le sue canzoni per lasciarci spazio. Di che cosa parliamo Alessandro oggi nella nostra trasmissione iperricca, visto che ci sono 40.000 cose da dire rispetto a quando ci siamo lasciati, ovvero l'inizio dell'estate in cui tra l'altro gloriosamente abbiamo dato l'annuncio in diretta che non era passata la direttiva software del Parlamento europeo così come la volevano, non era stata tra l'altro, era stata bocciata da tutti, non l'aveva più voluta nessuno, ci sarebbero un po' di discorsi da fare su questo e lo faremo in futuro. Oggi invece di che cosa andiamo a parlare? Oggi presentiamo un libro di Carlo Gubitosa, giornalista che si occupa di informatica e di libertà digitali, si chiama Elogio alla pirateria. Un libro che ha fatto anche molto discutere, soprattutto in ambiti dei movimenti dei diritti, insomma, diciamo così, digitali. Avremo un'intervista con Carlo Gubitosa, poi parleremo di phishing, che è la nuova moda dello spam. La querela estiva sulla sentenza Grokster e il futuro del peer-to-peer, e poi alcune news sulla censura statunitense e cinese. E comunque voglio consolare tutte le persone che non sanno il significato della parola phishing, non sanno cos'è la sentenza Grokster e non sanno nemmeno cosa vuol dire peer-to-peer, che glielo spiegheremo tra pochi minuti. Ecco, ci stavamo dimenticando nell'indice di questa trasmissione che parleremo anche di Open Document, il nuovo formato, nuovo che ormai ha qualche mese, e delle implicazioni che ha creato, un nuovo formato per i documenti che verrà utilizzato da molte software house, scusate, ma non da Microsoft, ne parleremo tra poco. Siamo ora in collegamento con Carlo Gubitosa. Ciao Carlo, grazie di essere con noi. Ciao a tutti. Ecco, con te volevamo presentare il tuo ultimo libro, Elogio della pirateria, che ha fatto anche un po' discutere per diatribe varie relative alla licenza. Volevamo innanzitutto chiederti un po' una presentazione di questo libro, che se non sbaglio sono una decina di storie, di casi emblematici degli ultimi anni, che appunto poi il titolo è abbastanza coraggioso, Elogio della pirateria, come mai? Ma perché raccogliendo questi racconti e cercando di dare un nome comune a tutte queste esperienze, il nome più adatto era appunto quello di pirati. E nel mio libro parlo di pirati delle città, quindi di graffiti, parlo di pirati del cibo e quindi della lotta contro le multinazionali del biotech, parlo di pirati dei farmaci che cercano di combattere le epidemie dell'AIDS a dispetto dei brevetti. Parlo dei pirati del software che cercano solamente di condividere cultura in rete, ma ci sono anche racconti su francobolli pirata, cioè francobolli inventati seguendo la fantasia e non le immagini imposte dallo Stato, e film pirata, cioè film ridoppiati, riscrivendo delle storie e usando i video già in circolazione come materia prima per creare nuove sceneggiature. Dunque, il libro esce in un periodo in cui si stanno serrando le fila contro la pirateria e consorzi di grandi multinazionali che si stanno comunque accordando, consorzi di software, ma comunque anche in generale difese di brevetti. È casuale o... Ma diciamo che negli ultimi anni qualunque periodo sarebbe andato bene per parlare di pirateria, perché negli ultimi anni si è assistito a una serie di leggi stupide più che repressive, stupide prima ancora di essere repressive. E quindi il ragionare di pirateria di questi tempi può essere uno stimolo per fare un po' il punto della situazione di tutte le libertà che abbiamo perduto in questi anni. La legge sul diritto d'autore risale al 41, per esempio, ed è stata modificata, ma sarebbe più corretto dire rappezzata, e da vari governi, perché di volta in volta al cambiare delle tecnologie sono cambiati anche gli interessi e le pressioni delle lobby che hanno ottenuto su misura le modifiche alle leggi che richiedevano. Basti dire un semplice esempio: prima la copia di software veniva punita solo a scopo di lucro, e cioè per fare dei soldi, poi una sentenza di un tribunale di Cagliari ha detto che c'è differenza tra lucro e profitto, e quindi il profitto di chi non fa soldi ma chi semplicemente ha un guadagno professionale o intellettuale del software, rispetto al software. Ebbene, dopo pochi mesi il Parlamento ha cambiato la legge sostituendo la parola scopo di lucro con trarre profitto. E leggere la storia delle leggi sul diritto d'autore è come leggere in radiografia le storie di tutti i gruppi di potere, degli interessi economici che hanno fatto lobbying e pressioni sul Parlamento. Ecco, proprio relativamente alla legge sul diritto d'autore, il tuo libro esce con una licenza particolare che è già stata utilizzata da molti altri autori in Italia. Cito per esempio il caso simile al tuo, quello di Wuming o Luther Blissett stesso, che erano stati un po' i primi magari a pubblicare e a rendere anche fruibili via internet in seguito, dopo qualche mese se non sbaglio, i loro lavori. Questo ha creato una polemica un po', forse da un certo punto di vista spiacevole, anche perché attacca a te, che sei sicuramente un difensore del diritto di copia. In particolare si è scatenata la polemica per il fatto che è circolata in rete una versione non definitiva di un tuo lavoro, e questo forse mostra anche un po' i limiti della Creative Commons, che è la licenza sotto la quale hai deciso di pubblicare, visto che non hai avuto la possibilità di porti alla circolazione di un lavoro non definitivo. Ma per dovere di memoria storica, devo dire che ancora prima di Luther Blissett e Wuming, nel 99 usciva il mio libro Italian Crackdown, che è il primo Vero, libro scusa. italiano e penso anche europeo a utilizzare una licenza che sarà poi un po' in embrione quello che diventeranno le Creative Commons qualche anno più tardi. La cosa è controversa perché c'è una generazione, una nuova generazione di lettori che pretende giustamente coerenza rispetto alla, al diritto alla, all'accesso alla cultura. Io ho usato una licenza Creative Commons che dice semplicemente che i lettori possono fare qualsiasi cosa con il mio libro, tranne rivenderlo, che è il libro di un altro, oppure modificarlo. E questo farci qualsiasi cosa comprende tutto: fotocopiarlo, stamparlo per darlo ad amici, farne una versione audio per i non vedenti, farne una versione in tutti i formati possibili e immaginabili. Però si è discusso nella legge Cyber Rights che questi diritti degli utenti, dei lettori del libro, potrebbero non essere sufficienti, e qualcuno ha teorizzato un obbligo per l'autore di rilasciare una versione in formato elettronico contemporaneamente all'uscita del libro in libreria. Io in effetti ho riflettuto su questo, penso che le libertà che io ho concesso ai lettori siano più che sufficienti. La creazione di un formato elettronico avrebbe potuto farla chiunque, però in tutto questo discutere è arrivato un terzo fattore che sinceramente è stato anche abbastanza simpatico, e cioè che un libro sulla pirateria è stato piratato. Cioè, mentre si discuteva di questa uscita di una versione elettronica che io volevo posticipare dopo aver avuto i primi feedback, i commenti dei primi lettori, c'è stato chi con il passamano ha avuto in mano una delle ultimissime bozze del testo e l'ha pubblicata in rete. Questo mi ha tolto da qualsiasi imbarazzo, per cui adesso il rilascio di una versione in formato elettronico è già venuto al di là di quella che potevano essere le mie intenzioni. Io sono solo contento perché la circolazione del mio libro è sicuramente un fatto positivo, anzi devo ringraziare chi ha messo questo libro online e chiunque, tutti quelli che lo scaricheranno. Ma questo sì, però un po' non è strano il fatto che una versione non definitiva di un libro, quindi magari senza le ultime aggiunte, le ultime correzioni, abbia avuto questa libertà? Ma sicuramente è una versione, non è la versione che è finita in libreria, ma la modifica riguarda semplicemente che, grazie al cielo, quest'estate è stata bocciata la direttiva europea sul copyright, e quindi all'ultimo momento ho dovuto aggiungere due righe per questa cosa. Però il fatto che sia circolato il 99% del libro è una cosa che dimostra come ormai nell'era della comunicazione elettronica l'unico modo per essere sicuro che un testo non circoli è quello di non scriverlo o di non farlo leggere a nessuno, e questa cosa a me non piace. Io sono contento di aver fatto leggere questo libro in anteprima, in forma di bozza, a due persone che poi a loro volta l'hanno passato a un amico, che l'ha passato a un amico di un amico, che poi alla fine, l'ultimo nodo della catena, ha deciso di metterlo su internet. Questa cosa all'inizio mi ha dato fastidio perché avevo perso il controllo sulla mia opera, nel senso che mi sarebbe piaciuto far uscire una versione in formato elettronico, magari con un annuncio in grande stile o ritoccando il testo nei minimi dettagli. Però alla fine è vero che un libro, nel momento in cui se ne parla, nel momento in cui arriva in libreria, forse non è più patrimonio, non è più una cosa che deve essere controllata da chi lo ha scritto, ma alla fine poi chi lo legge può farne in definitiva ciò che vuole. Un'ultima cosa vorrei chiedere proprio a proposito di questo, alcuni commenti appunto in lista. E una cosa molto interessante che avevo letto in lista appunto in risposta ai vari commenti. A un certo punto lei dice alla fine non è tanto dal guadagno del libro che, diciamo, l'autore ne ricava interesse personale, quanto del girare, nel fare interviste, nel rilasciare, comunque nell'essere presente alle presentazioni e così via. Insomma, una sorta di live, come è per gli artisti musicali, mi pare di aver capito, insomma, una cosa di questo tipo. Ma pensiamo a un fatto: in Italia se un libro costa 10 euro, la metà va al distributore, cioè a chi va in giro col camioncino a portare i libri nelle librerie e a recuperare le rese, quindi il 50% del prezzo di copertina va al distributore. Una percentuale che va dal 20 al 30% va al libraio, e poi rimangono l'editore e l'autore che si devono contendere questo 20% che rimane d'avanzo. Quindi è difficilissimo che un libro faccia guadagnare un autore più del 10% del prezzo di copertina, il che vuol dire per un libro di 10 euro, un euro per ogni copia venduta. Mentre invece la vita di chi scrive non è stare, o almeno se escludiamo i casi, il doping letterario, come può essere per esempio per i libri di Bruno Vespa, che uno ci inciampa nella libreria e poi lo deve comprare perché l'ha calpestato, se escludiamo i casi di doping letterario o di commissioni, per esempio Mondadori, le reti Mediaset che fanno pubblicità ai libri Mondadori, che come dire Berlusconi che pubblicizza Berlusconi, a parte questi casi è molto difficile che uno scrittore viva a braccia conserte aspettando seduto alla finestra che gli arrivino i diritti d'autore dei libri, ma è anche giusto così, cioè è anche giusto che una parte di quello che io faccio per vivere sia anche accettare i contributi liberi di chi mi invita a parlare in giro, oppure accettare i pagamenti per articoli che mi vengono chiesti da chi dice: ah, tu hai scritto questo libro, perché non ci fai un articolo su questi argomenti, su questa rivista? Ed è un po' questo lo spirito, cioè la circolazione delle idee non è una mia bontà o generosità particolare, deriva anche dal fatto che le mie idee circolino i miei libri è nell'interesse di chi li legge, ma anche nel mio interesse, semplicemente perché io, non avendo nessuna televisione che mi pubblicizza i libri, ho come unico sostegno le cose che scrivo, le mie idee, e quindi più circolano, più si fanno pubblicità da sole, insomma. È un altro modo di intendere il copyright sulla produzione intellettuale, sostanzialmente. Esatto. Grazie Carlo Gubitoso. Grazie, autore di Elogio della pirateria. A presto. Buon lavoro. Salve. Ciao. Dopo aver sentito Carlo Gubitosa, che tra l'altro abbiamo sentito anche spesso fuori dagli spazi di Cialtroni nello spazio, andiamo a parlare adesso del formato che è stato proposto lo scorso maggio e che è diventato standard, per la precisione il 23 maggio del 2005, un formato che si propone di essere un nuovo standard nella scrittura dei documenti e quindi qualcosa che vada a sostituire il formato chiuso della Microsoft, il famoso .doc, documenti di Word, che è un formato aperto. Cosa significa che questo formato è un formato aperto? Allora, vabbè, non sarà solo il .doc, ma in realtà è uno standard che coprirà tutti i documenti, quindi quelli di Excel, quelli di Word, tanto per capirci. È vero. E allora, è un accordo che c'è stato tra diverse software house per cercare di trovare un formato che potesse andare bene a tutti e quindi fosse apribile con qualsiasi software di scrittura piuttosto che fogli di calcolo, eccetera. Al progetto hanno partecipato la Sun, che ha avuto insomma un ruolo piuttosto importante, essendo la più grossa casa software che ha partecipato al progetto. Quella che tra l'altro insomma finanzia in qualche modo e ha partecipato molto alla costruzione di software molto diffusi come... Beh, quella che ha dato il là a OpenOffice nel suo vecchio nome StarOffice, che è la principale alternativa ai formati di Microsoft, alla suite Office di Microsoft. Dunque lo standard ci interessa relativamente, comunque è basato su XML, che è un linguaggio di cui esistono le specifiche pubbliche. Lo standard sarà aperto e libero per implementazioni successive, ma avrà sempre una base compatibile tra tutte le varie applicazioni. Tra i vari applicativi che saranno in grado di aprire questi documenti c'è ovviamente OpenOffice e StarOffice, KOffice, che è la suite Office di KDE, che è un desktop di Linux, e IBM Workplace della IBM ovviamente. Insomma, sostanzialmente tutti i grandi pacchetti Office distribuiti attualmente, tranne l'Office di Microsoft. Ed è qui che casca l'asino, perché che cosa è successo quando Microsoft ha deciso di non implementare Open Document? E il 29, Microsoft ha deciso di non implementarlo perché non gli interessa. In compenso il mondo reagisce in maniera differente alle scelte di Microsoft, in particolare lo stato del Massachusetts il 25 settembre, insomma durante la fine di settembre, ha deciso che accetterà come documenti solo documenti in formati aperti, quindi taglia fuori i punto doc dalla sua amministrazione pubblica e anche dagli eventuali documenti che le arriveranno. E questo comunque è una discreta batosta per il pacchetto di Microsoft, che comunque in casa, diciamo negli States, è la prima volta che riceve un rifiuto di questo tipo. L'aveva già ricevuto in Germania, a Londra, in Brasile, però insomma negli States è la prima volta che viene respinto in questo modo. E vai dunque con un po' di musica, che cosa ci proponi oggi? Allora, un CD che mi è arrivato direttamente da un gruppo di Milano, si chiamano Psychonosis, fanno un jazz degli anni 2000 sostanzialmente, quindi con un po' di elettronica e così via. Purtroppo il loro sito è ancora in allestimento, comunque promette bene, è www.psychonosis.com, ovviamente per la pronuncia e tutto quanto guardate il sito, perché ovviamente ci sono H e Y a profusione. E questo è il brano che dà il via. Ma guardate all'album. Il sito, quale sito, scusa? A www.circola.net oppure spazio.circola.net. Andiamo ora a parlare di un po' di news, andiamo a parlare di qualcosa che è stato diventato molto più di moda quest'estate, soprattutto anche per gli utenti italiani, mentre invece, come spesso capita, in lingua inglese questo problema si era si era sviluppato già molto prima. Molti utenti italiani quest'estate sono stati bombardati letteralmente di email che fingevano di arrivare da Banca Intesa e che sostanzialmente chiedevano, come al solito, di poter accedere ai vostri dati personali. Come facevano a sapere che voi avevate un conto con Banca Intesa? Ovviamente non lo sapevano, e però, giocando sulla legge delle probabilità, hanno cercato dei clienti di Banca Intesa chiedendo dei dati personali. In questo caso, di che cosa si può parlare in termini tecnici, Alessandro? Allora, questa tecnica si chiama phishing e è un termine inglese che appunto indica queste tecniche per ottenere informazioni private o di vario genere, camuffando in messaggi con messaggi più o meno realistici. C'è una buona definizione su Wikipedia di che cos'è il phishing. E sostanzialmente, vabbè, il meccanismo è semplice, è come lo spam, quindi un sacco di mail mandate a un sacco di gente con indirizzi raccolti in internet o con svariate tecniche. Queste mail chiedono di connettersi più o meno urgentemente via web o a una pagina dove verranno chiesta la conferma dei propri dati personali, eventualmente anche password, account, eccetera. Per cui, se uno, appunto, generalmente gli utenti che non hanno questi servizi, non so, non sono clienti della tal banca piuttosto che della posta, eccetera, eccetera, ignorano questi messaggi, però gli utenti più sprovveduti che hanno questo genere di servizi possono anche rispondere inserendo quelle informazioni, pensando che sia effettivamente il gestore del servizio a chiedergli queste informazioni. Ecco, ricordiamo che la miglior difesa contro il phishing è non credere a questi messaggi, perché nessuno chiede questo genere di informazioni via mail, e questo lo sottolineiamo, nessuno lo chiede mai, non esistono, non ci sono ancora banchi così folli da chiedere queste informazioni. Esattamente come voi non dareste il numero della vostra carta di credito a una persona che incontrate per strada a un semaforo, non dovete farlo nemmeno se qualcuno ve lo chiede via email, insomma, anche se questa persona via email magari vi dice di essere il direttore della vostra banca o chi per lui. Esistono però anche degli strumenti per evidenziare o comunque scoprire se un sito è un sito reale, cioè se effettivamente il sito delle poste piuttosto che di una tal banca a farvi la richiesta, o se è invece un sito fittizio con una pagina costruita apposta, magari ricalcando loghi e stile della pagina reale di un qualsiasi gestore di servizio. Strumenti che funzionano a volte anche nel caso che la vostra banca veramente sia stata craccata o abbia avuto, insomma, dei problemi di questo tipo, e che quindi voi pensate di collegarvi proprio digitando l'indirizzo alla vostra banca e poi invece qualche malintenzionato ha creato un sito copia. Allora, purtroppo lo strumento che si usa è in inglese, è possibile scaricarlo dal sito toolbar.netcraft.com. È sostanzialmente un'aggiunta a Internet Explorer o a Firefox, che permette di accedere a una lista di siti che sono stati classificati come siti fasulli da segnalazioni di utenti, a cui ovviamente tutti sono stimolati a partecipare, insomma, comunque a contribuire. E da questa lista è possibile controllare se il sito a cui vi state collegando è già segnalato come un sito di phishing. Anche se la regola migliore è quella di non credere a chi ve lo scrive via email, o eventualmente anche digitare voi stessi, senza seguire i link che ci sono nelle email, gli indirizzi quando voi volete collegarvi alla vostra banca o comunque ai servizi di acquisto online, per evitare, visto che ci sono stati in passato anche tentativi di clonazione di siti famosi come eBay e altri che sono stati appunto bucati. We'll be right back. comes, comes, you push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on. Torniamo adesso a parlare di libertà e di repressione nei confronti degli utenti del peer-to-peer, ovvero lo scambio libero che avviene tra utenti che decidono di condividere il materiale che posseggono sul loro computer. Ci sono state un po' un giro di vite quest'estate contro alcuni dei servizi che sono stati utilizzati più spesso negli ultimi anni, in particolare quelli per Windows di Winamax e quello di Edonkey, che invece, se non sbaglio, era possibile anche avere un porting su Linux, però forse mi sbaglio. Sì, sì, esisteva già. Okay. Allora, la sentenza... Ecco, cerca di evitare di schiarirti la voce nel microfono, Alessandro, qualche piccolo dettaglio. Questo problema. Allora, la sentenza, che è destinata a fare storia nella legislatura americana e di conseguenza nella legislatura internazionale, passa sotto il nome di sentenza Grokster, che era uno dei due imputati assieme a Morpheus in questo processo. Vabbè, brevemente, il processo aveva superato i due stadi della legislatura americana, quindi il primo grado e l'appello, era passato alla Corte Suprema, e la Corte Suprema nel giugno di quest'anno ha deciso di condannare i due produttori, Grokster e Morpheus, per i relativi programmi peer-to-peer forniti da queste aziende, e di rimandare la sentenza quindi in corte d'appello, sostanzialmente per una prossima condanna. Cioè, la legislazione americana più o meno funziona in questo tipo. Allora, in particolare ci sono alcuni dettagli da sottolineare che rendono la sentenza meno impegnativa di quanto sembri, e comunque vedremo un attimino anche alcuni risvolti pratici che ha avuto poi recentemente. Comunque, la sentenza dichiarava che le due case produttrici sono da considerarsi responsabili nella diffusione e delle pratiche di violazione del copyright attraverso le reti peer-to-peer, e del loro favoreggiamento. In particolare, la Corte Suprema ha stabilito che la pubblicizzazione di questi software, fatta per mezzo di frasi del tipo con il nostro software potrai ottenere, scarica tutta la musica che vuoi o trova tutti i film che vuoi rivedere, eccetera eccetera, era palese l'intento delle due case produttrici di sviluppare del software atto a violare il copyright. E questo è, secondo la Corte Suprema, una discriminante notevole nel decidere o meno se le due case produttrici sono colpevoli, corresponsabili, comunque per il favoreggiamento della distribuzione o della violazione del copyright. Altro dettaglio sottolineato dalla Corte Suprema è che l'interesse di queste compagnie derivava proprio dalla diffusione o meno di massa dei software da loro prodotti, quindi tanti più prodotti o comunque software di queste case venivano distribuiti, tanto più queste case guadagnavano, ad esempio attraverso la pubblicità che tramite questi client, tanto per capirci, Morpheus aveva una striscia pubblicitaria sotto. Più strisce erano diffuse, maggiore era la cedola che queste case produttrici staccavano rispetto ai loro inserzionisti. Insomma, si può dire che non sia una condanna in toto del peer-to-peer, ma anche di come queste due aziende hanno agito per cercare di pubblicizzare il loro prodotto, mentre altre aziende si sono comportate in maniera diversa, alcune addirittura in modo molto cauto nel scrivere o nel pubblicizzare, dicendo scarica tutto il software che vuoi o scarica tutta la musica o i film che vuoi. Anzi, altri dicono noi non siamo responsabili se viene utilizzato illegalmente commercialmente o per condividere del materiale prodotto da copyright. Quindi in questo sono stati probabilmente anche un po' ingenue le due software house. Beh, sì, credo che questo abbia inciso. Comunque la sentenza ha un valore importante indipendentemente dalla pubblicizzazione. Sostanzialmente, come fa notare anche l'autore di iDonkey, che è un'altra famosa rete su cui si appoggiano appunto iDonkey, Overnet e Mule, che diciamo attualmente è quello il più muletto. Diffuso. Come dice, come ha detto nella dichiarazione che c'è stata qualche giorno fa rispetto appunto a questa sentenza e alle sue cause appunto nei confronti della rete di iDonkey, ha dichiarato che tutte le piccole aziende che producono software per lo scambio di file verranno messe a dura prova da questa sentenza, e in particolare tutti i produttori di tecnologia peer-to-peer, è probabile che tutti i produttori di tecnologia peer-to-peer saranno costretti a passare o all'open source o aprire loro sedi all'estero, dove la RIA o comunque la legislazione americana non può agire. E questa è una delle svolte più importanti di questa sentenza. Tanto per capirci, dopo questa sentenza, la WinMX, che era uno dei software di condivisione più utilizzati, il 27 settembre ha deciso di rinunciare alla sua attività di peer-to-peer gratuito e di passare ha deciso di spostarsi di sede e di finire in alcune isole offshore lontano dalla legislazione americana, e di ristabilire lì i propri server. Ovviamente la cosa è in via di svolgimento, però insomma queste sono le voci. iDonkey invece ha deciso di passare a una piattaforma commerciale, ovvero continuerà a esistere come rete peer-to-peer ma a pagamento, quindi venderà servizi un po' come era successo per Napster, quindi pagherà le royalties alla RIA o all'agenzia di turno, e però appunto darà i propri servizi a pagamento. In sostanza adesso sopravvivono o possono sopravvivere solo i software peer-to-peer open source, oppure che fanno pagare i loro utenti. Come mai gli open source possono continuare a sopravvivere? Perché viene meno una delle parti fondamentali della sentenza della Corte Suprema, che è quella su cui si basa poi la condanna, che è l'interesse delle compagnie. Cioè, se io sviluppo un software peer-to-peer e ne ricavo interesse, tanto più questo software si diffonde, tanto più la pratica della violazione del copyright si diffonde, allora io sono colpevole della diffusione, perché ne ricavo direttamente interesse. Per quanto riguarda invece i software sviluppati da comunità, non c'è questo interesse personale, quindi viene a cadere lo stimolo che queste compagnie davano alla diffusione del peer-to-peer. Quindi questi software, che possono avere anche un utilizzo legale, almeno teoricamente, non possono essere oggetto di questa sentenza. Forse di altre, però non di questa sentenza. Bad. questo lungo aggiornamento che stiamo facendo, dato che abbiamo fatto 2 mesi o 3 di pausa per Centrino nello Spazio, non potevamo non parlare di quello che si è mosso anche nel campo della censura. Questa puntata sarà un po' più lunga del solito, ma ne approfittiamo, visto che ancora non è ricominciata a ritmo naturale dopo di noi. Per quanto riguarda la censura, in particolare 2 casi, Alessandro, dicevamo? 2 casi allora che riguardano la censura cinese, la Cina che ha fatto un accordo con Yahoo appunto per interagire meglio con i blog forniti da questo provider portale. Portale di servizi internet che è Yahoo, è abbastanza famoso, in particolare Yahoo Cina, per filtrare tutta una serie di, insomma la tecnica è la stessa, comunque di filtrare parole o termini che vengono pubblicati sui blog e sui siti personali, onde evitare che informazioni o termini che scomodi, Pechino non vuole viaggino in rete si diffondano attraverso questi blog, che erano un po' gli ultimi canali di comunicazione liberi disponibili per la rete cinese. Ricordiamo che dall'interno della Cina non è possibile visitare tutte le pagine internet, perché esiste un firewall nazionale che impedisce di accedere appunto a siti che sono così, diciamo, censurati. Non esiste solo la censura cinese, ma guarda caso esiste anche la censura americana. In particolare c'è un tentativo della FCC, la notizia è del 29 settembre, e appunto il tentativo della FCC, che è la Federal Communication Commission, ovvero quella commissione che si occupa di tutto ciò che riguarda le telecomunicazioni, e è allo studio appunto, è al varo della FCC la valutazione di alcuni software, in particolare software per il Voice over IP, di cui avevamo parlato, cioè tanto telefonia via internet, esatto, tanto per capirci Skype, che è l'esempio più diffuso, e appunto è al vaglio della FCC la legittimità di questi software che permettono le telefonate via internet, la possibilità appunto di decidere quanto o meno questi software siano legali. Il problema ovviamente è sempre della rintracciabilità, quindi un po' si aggancia alla varie fobia terroristica esplosa post 11 settembre, cioè sostanzialmente è troppo difficile controllare le telefonate che vengono fatte via voice over IP, esatto. Cioè voi potete telefonare ed è difficile che vengano intercettate queste telefonate, ed è per questo che si propone addirittura una backdoor, ovvero la possibilità di accedere direttamente alle vostre telefonate senza nemmeno lo sbattimento di cercare il modo di intercettarle. In effetti una delle soluzioni proposte dalla FCC è di includere obbligatoriamente delle backdoor, ovvero la possibilità da parte di enti autorizzati di entrare sulla comunicazione, che normalmente è protetta perché viaggia attraverso internet, comunque di alcuni enti autorizzati di entrare nella comunicazione e di poterla ascoltare, cosa che attualmente non è possibile fare. Diciamo che ricalca un po' la battaglia che era stata fatta sempre dall'FCC rispetto alle tecnologie PGP di criptatura, che sono quelle tecnologie di cui abbiamo parlato l'anno scorso, che permettono di criptare i messaggi, quindi di nasconderli e farli viaggiare via internet, quindi anche tramite via posta elettronica, senza la possibilità da parte di dei calcolatori che fanno l'infrastruttura di internet di poterli analizzare e di ricavarne informazioni. Un esempio fra tutti è Echelon. E si conclude così la prima puntata. Facciamo partire subito la sigla. Ci risentiamo la settimana prossima. Ovviamente dovremo riprendere un attimino la pratica del microfono. Ricordiamo il sito www.circolab.net, e lì troverete le vecchie puntate, quelle nuove compresa questa, tutti gli argomenti di cui abbiamo trattato con i link dei siti informativi da cui abbiamo preso le notizie, e troverete anche uno spazio per inviarci commenti e informazioni. E quindi appuntamento per la prossima settimana, ancora attorno alle 12.40, ci sarà anche Marco. Speriamo di sì, speriamo che si lauri, che così almeno... Ciao Marco!